Dicevo, buonasera a tutti, benvenuti, vi do il benvenuto a nome della Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta che ha organizzato questa presentazione. Ringrazio Mattias Graziani che già per la terza volta, se non ricordo male, forse anche quarta, qui da noi nostro ospite, grazie per questo. Ringrazio tutti voi di essere venuti così numerosi per questa serata. Ringrazio anche Paolo Carnevale che farà da moderatore e intervisterà il nostro autore durante questa serata, e ringrazio naturalmente Maria Pia Zanetti che ci accompagnerà con delle letture. Io vi ricordo solo il prossimo appuntamento, i prossimi due appuntamenti della Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta, che sono lunedì 17 dicembre, organizzeremo una festa per i premiati del premio Claudio Augusta, sempre qui nella sala del Centro Trevi, e poi giovedì 20 dicembre sarà la nostra ultima presentazione, l'ultima per questo anno 2018, dove ci saluteremo e ci sarà la presentazione dell'ultimo libro del dottor Tobrilla. Ecco, sempre alle 18, chi volesse venire, sempre qui in sala più uno. Io vi saluto e vi ringrazio ancora. La collega Karin ha portato dei libri qui dell'autore Mattias Graziani che si possono prendere in prestito. Vedo invece là in fondo Marcello della libreria Ubic, ciao, che invece si occuperà della vendita per questa serata. Quindi ringraziamo anche loro. Ringraziamo anche gli amici Marcello della Ubic per essere qui con noi. Io vi lascio a questa bella serata e vi lascio a una bellissima voce che è quella di Maria Pia Zanetti, e grazie sì. Ancora. I fuochi del Sacro Cuore avevano cominciato ad ardere sulle montagne attorno a Bolzano, e i ragazzi che trasportavano legna e birra imprecavano come cani rabbiosi. Stava calando la sera e immaginavo il carretto che procedeva lento, strappando dal terreno le zolle smosse, mentre i tre fratelli operosi si passavano una lattina di birra. Si erano lasciati alle spalle il paese e i desolati poderi ridotti a gramigna. Nel frattempo io me ne stavo disteso sul letto cicolante, ancora ignaro di quello che stava accadendo. Come ogni anno, il fuoco dei fratelli doveva essere il più grande della zona, visibile fino alle montagne opposte della vallata. E Johannes, Marcus e Rudy erano contadini e aiutavano il padre a portare avanti i lavori col bestiame e i vigneti. Johannes, il maggiore, aveva appena compiuto 16 anni ed era proprio lui a tirare il carretto su per la salita in mezzo al bosco. Era il più robusto dei tre, ma anche il più tranquillo e remissivo, mentre gli altri due si atteggiavano da duri. Presto, quel fare da bulli sarebbe svanito come sterco di capra sotto un temporale. Era inizio giugno e sembrava che l'inferno avesse spalancato le sue porte. L'aria che spirava nella conca di Bolzano, raggiungendo Merano e tutto il Burgraviato fin su nella Val Martello, era umida e calda come un pilsner bollito. I ragazzi, comunque, erano diretti a un'altura dove avrebbero appiccato un grande falò. Lì si sarebbero incontrati con degli amici e avrebbero passato la serata a ballare, a osservare gli altri fuochi sulle montagne e magari a cominciare con le ragazze del paese. Almeno così credevano. Fu Marcus a notare i cadaveri. Era un ragazzo abituato a vedere morire gli animali, perché faceva parte della vita di montagna. Ma vedere morto qualcuno della tua stessa specie è un discorso completamente diverso. Le vittime erano nude, livide, le reali. La donna aveva gli occhi spalmati, occhi grandi che sembravano osservare ancora. La bocca aperta che emetteva un urlo muto, bloccata nell'ultimo disperato tentativo di invocare aiuto. La pelle annerita dell'uomo pendeva dal corpo in decomposizione e in mezzo alle ferite e lacerazioni spuntavano due musi di cani ringhianti. Marcus ne era sicuro. C'era un mostro, non un uomo, disteso nella radura. Un disegno, una visione, un male inspiegabile che emergeva dal bosco antico, tra i grovigli selvaggi di tronchi, le cui radici si estendevano fino all'abisso più profondo. Naturale estensione della mente umana e perversa del chile. I ragazzi ebbero sbocchi. Avrebbero continuato a raccontare quella vicenda per anni, ignari però che il loro ritrovamento era soltanto l'inizio di un orrore liquido in cui sarei lentamente sprofondato. Bene, grazie a Maria Pia per questa bella lettura che ci ha piombati così violentemente e prepotentemente dentro il mondo di questo nuovo libro di Mattias Graziani. Mattias Graziani, l'autore. Buonasera a tutti. E devo dire che quando Mattias mi ha chiesto di venire a... di venire, non è stata un'imposizione, ma ha chiesto se avevo voglia di fargli da introduttore per questa presentazione, ero molto curioso perché avevo voglia di vedere a cosa fosse arrivato Mattias con la scrittura dopo aver letto il suo debutto thriller di 2 o 3 anni fa, che era una cosa abbastanza in linea con questo nuovo libro che si intitola Quel che resta del peccato, ma che me lo aveva annunciato cambiava ambientazione, aveva spostato l'ambientazione degli Stati Uniti, dalle città, dalle metropoli di Miami e di New York, due posti tipici dove sono ambientate miriadi di serie televisive di carattere poliziesco, pulp o hard boy che dir si voglia, a seconda della corrente della letteratura gialla che inseguono, ma aveva spostato tutto nella nostra provincia, e questo mi incuriosiva molto perché era un pochino quello che mi aspettavo anche da lui, perché credo che sia bello sì anche andare ad ambientare delle storie in altri posti, ma quelle in cui viviamo sono le zone che conosciamo forse meglio e che riusciamo anche a rendere meglio nella scrittura. Parlo per noi che scriviamo, ma anche per chi fa altre cose, insomma, quello che con chi si conosce è quello che si sa anche rendere meglio. E per cui appunto sono stato veramente molto contento di essere qui questa sera, anche perché Mattias sta proseguendo un cammino, adesso bisogna anche un po' introdurlo e presentarlo, perché Mattias classe 1979, sì. Appunto non è un novellino, ma il suo primo libro l'ha pubblicato che aveva 27 anni? Sì, all'incirca, sì, ecco. Sì, 27, con Armenia. Con Armenia, e si trattava di qualcosa di completamente diverso. Non è il titolo questo qualcosa di completamente diverso, no. È proprio come genere, perché lui è nato come autore di genere fantasy con una trilogia, giusto? Sì, tre romanzi fantasy. Era la mia passione fin da ragazzino, leggevo i romanzi pubblicati con Armenia, che erano negli anni 80-90 molto molto famosi. Il top. Sì, cioè, erano, diciamo, il modello. È la prima casa editrice che ha iniziato a pubblicare fantasy, solo fantasy in Italia, acquistando poi i diritti di queste di queste saghe americane di fantasy. E quindi poi vedermi pubblicato, insomma, la trilogia fantasy poi come esordio per l'editore, casa editrice, è stata una soddisfazione molto, non da poco. Sì. Allora, io direi che adesso, visto che stiamo entrando nel vivo della presentazione, passiamo dalla fantasy, questo era giusto per fare un quadro sulle esperienze precedenti di Mattias, ma entriamo nel vivo di questo, ci siamo già entrati con la lettura di Maria Pia, ma adesso entriamo nello specifico guardandoci il trailer di questo nuovo libro. Sì. E poi parleremo anche di questa cosa. Ebbene, questo era il trailer che presenta il libro. Vogliamo dire a sconvolta, ai nostri ospiti, perché magari non sapevano cosa aspettarsi. Era finto sangue, no, lo dico perché... Sì, beh, per queste riprese non è stato fatto male a nessun essere umano. Sugli animali non so. No. Ma anche gli animali, no, meglio dirlo sentito, perché... Sì, no, neanche gli animali. No, il book trailer l'abbiamo girato sì, in autunno, come avete visto, e abbiamo utilizzato ottime risorse, Forma 7 ha girato il book trailer, ci siamo divertiti, siamo stati qua a Bolzano, cioè, verso Pietralba siamo andati, in Burgone siamo fermati, c'erano un po' di persone che scendevano in macchina e vedevano me girare incappucciato con una roncola insanguinata, non so che idea si siano fatti. Nessuno ha chiamato la polizia, sui giornali non abbiamo letto di falsi allarmi. No, poi le prove che abbiamo fatto con la roncola sulla corteccia, ci sono parecchie schizzate di sangue, scendendo poi che siamo andati a mangiare qualcosa, abbiamo visto di nuovo tutte queste sulla strada, si vedono, sono queste schizzate di sangue, non so le persone cosa possono immaginare, ma ok, ha reso l'idea comunque. Vi siete divertiti a farlo? Sì, però. Sì, sì, abbiamo usato anche un drone per le riprese, quelle dall'alto, e ecco, poi Forma 7, insomma, mio cugino che è anche in sala, lo ringrazio perché ha fatto un ottimo lavoro, le riprese sono di una qualità eccellente. E l'operatore drone, sì, sì, sì, l'operatore drone, alzati, fatti vedere. Siamo praticamente pronti per il film. Non sarebbe male, sì. Sì, sentito? Magari. Ma siamo invece pronti per ascoltare un altro brano dalla sì, voce di Maria Pia. Così ci, dopo l'ambientazione, avete capito, appunto, l'ambientazione locale, c'è un riferimento abbastanza forte a qualcosa di molto tipico che sono i fuochi del Sacro Cuore. Adesso andiamo a vedere un pochino invece qualcosa sullo stile narrativo a cui sì, questo... Sì, i fuochi del Sacro Cuore mi hanno sempre colpito, no? Cioè in realtà da quando sono ragazzino li ho trovati sempre molto... particolari, un'atmosfera veramente notevole, fin da bambino vedevo questi fuochi a pampare attorno a Bolzano, queste croci, e quindi l'idea di ambientare, di partire col libro, con le prime scene, con questa ambientazione, poteva essere un inizio abbastanza, insomma, interessante, quindi ho utilizzato uno dei nostri, diciamo, delle nostre usanze che in altri posti, in altre città non conoscono neanche, perché io ogni tanto quando lo racconto non ci credono quasi che ci possano essere croci infuocate attorno e poi buoni e buoni, certo. Ok, facciamo un canto. Indossai dei pantaloni color cachi e una camicia bianca. Uscì da Louise, l'albergo catapecchia a 0 stelle. Indossai i miei fedelissimi Ray-Ban e osservai il paesaggio filtrato dalle lenti verdi. Le montagne si stagliavano contro il cielo perso, nemmeno una nuvola. Il sole sfiorava le cime dei pini lontani, tingendoli di verde e nero. La tipica adolescente squaccona mi salutò alzando il dito medio. Era rossa di capelli con le lentiggini e il sorrisetto facile. Masticava una gomma. Buona giornata anche a te, le dissi mentre mi fermavo davanti al mio bolide con le chiavi in mano. Oh, ma non sarà una buona giornata, rispose lei tagliandomi la strada. Qualcuno ha pisciato sulla tua moto. Ah, non dire idiozie. È vero, fece un cenno con la testa. E non sono stata io, sai quello che pensi. Non ci riesco ancora a pisciare in piedi come un uomo. Ehi, modera il linguaggio, signorina, non dovresti parlare così. E tu non dovresti girare su quel ferro vecchio. Non offendere il mio bolide. E adesso levati di torno, forza. Aggirai l'ostacolo munito di capelli rossicci mentre sentivo che mi faceva il verso. E hai i tuoi limiti sulla faccia, ti hanno menato, Prima o poi qualcuno le darà anche a te. Ma lo dissi sottovoce, speravo non accadesse. Raggiunsi la mia Vespa modello Speedmatic. Quando sganciai il lucchetto mi accorsi che la salutella dai capelli rossi aveva ragione. Qualcuno aveva pisciato davvero sulla carrozzeria celeste del mio bolide. Ma dai! Il getto era arrivato fino al sedile. Non era stato un cane. Probabilmente un ubriacone, che si credeva un cane perché era solo come un gatto. O un cane, insomma, quel coglione. Che ti avevo detto? Non adesso. Mi voltai aggirando nuovamente l'ostacolo con le lentiggini ed entrai nel Louise, ma ad accogliermi c'era il tizio del turno di notte, probabilmente in attesa del collega. Aveva le borse sotto gli occhi e un brufolo gigante sul naso. Senti, avresti mica un fazzoletto o qualcosa di simile per pulire il mio bolide? Il tizio si grattò sul lato destro del naso, vicino al brufolo. Temetti potesse esplodermi in faccia. Per bolide intendi qualcosa? Restò lì a fissarmi, masticando una gomma. Ti dai una mossa o ti devo prendere a calci? Glielo dissi con tono arrabbiato, soprattutto perché aveva offeso la mia Vespa. Svogliatamente mi allungò una salvietta senza smettere di masticare. E dammene 2 o 3, per favore. Lui obbedì. E schiacciati quel brufolo, ok? Gli diede una panca sulla spalla che lo fece scattare indietro come una palla. Perché stai interpretando alla perfezione, meravigliosamente, i dialoghi. Cioè, adesso a parte tutto i toni, l'intonazione, i dialoghi in una storia sono importanti, in un romanzo sono molto importanti. È come me lo sono immaginato, niente di più, niente di meno. Grazie. Quindi come lui ha scritto in realtà. Sì. Hai immaginato giusto. Ho immaginato giusto, meno male. Sì, quello che dico anche spesso in classe, ragazzi, a scuola, bisogna immedesimarsi nei personaggi, quindi anche in una bambina smorfiosa o in un signore che magari tutta la notte è rimasto lì alla hall dell'albergo, oppure appunto in Kurt, che è il protagonista e come avete visto è un attaccabrighe, è uno che dice tutto quello che pensa, non si trattiene. È quello che credo un po' tutti noi vorremmo poter fare in certe situazioni e non possiamo farlo, e lui lo fa, e quindi è stato divertente anche personificare, no? Un personaggio di questo tipo e lasciare un po' correre queste emozioni, queste sensazioni. E questo ci fa arrivare allo stile narrativo usato per questo romanzo. Perché già nel primo romanzo giallo di Mattias c'erano delle forti influenze della scuola giallistica un po' pulp, un po' hardboiled americana, e in questo secondo romanzo Mattias è riuscito veramente a farle sue, per esempio sia nel creare i personaggi che determinate situazioni, secondo me, ma credo che non abbia difficoltà a riconoscerlo, ci sono ampi riferimenti a un autore come Joe Lansdale che di questo genere è un maestro, e sembra che poi la provincia di Bolzano, con tutte le sue particolarità, e Bolzano città, calzino perfettamente a quello che Lante l'ha sempre ambientato nel Texas orientale, e qui praticamente ci calza a pennello anche. Sì, mi sono stupito anch'io in realtà, perché mi faceva strano inizialmente, no, scrivere una storia così ambientata nella nostra città. Mi suonava stranamente più lontano quasi rispetto a quando l'ho ambientato a New York e Miami, paradossalmente, forse perché siamo abituati, no, a leggere o a vedere film ambientati in certi posti, però poi strada facendo mi sono accorto che era bello utilizzare questa la parte, quella più... c'è una rana, cioè, sono riuscito a farmi una rana oggi, incredibile. No, stavo dicendo che riuscire a sovrapporre la nostra Bolzano come città più vivibile d'Italia a situazioni vicine, violente e più idonee, diciamo, a magari al pulp e a posti. Se ci nutrassimo nel discorso della città più vivibile d'Italia, penso che potremmo fare non notte, ma potremmo fare anche la settimana prossima. Una cosa interessante è che appunto lui ha preso lo spunto per iniziare la storia da una cosa molto tipica, molto conosciuta dalla popolazione locale come i fuochi del Sacro Cuore. Però poi ha saputo perfettamente non cadere nella tentazione di parlare di una Bolzano da cartolina, che è quella che piace tanto magari al turista, quella del mercatino, quella delle belle montagne e quella dei costumi tradizionali, ma alla fine presenta una Bolzano cupa, tetra, periferica, degradata, sì, che esiste in realtà, non è che siamo una città dove si vive meglio in Italia, però non è che qui manchino le zone col degrado, e l'aver saputo anche renderle letterariamente è un pregio in questo libro. Grazie. Prima di passare di nuovo la parola a Maria Pia. Perché io sinceramente posso dirti una cosa, la facciamo leggere solo lei. Noi stiamo zitti. Che responsabilità! Ma magari la gente è anche contenta, non lo so. Facciamo una votazione. No, ma prima di passare la parola a lei, parliamo di un'altra lei. Perché in questo libro, rispetto al libro precedente, emerge anche una, diciamo, protagonista tra virgolette, perché non è la protagonista, il protagonista è indubbiamente Kurt, per tutta una serie di cose che non sono chiare dall'inizio, ma il finale è innegabilmente all'insegna di Kurt. In mezzo c'è Vanessa, esatto. Che allora, una cosa possiamo anche dirgliela, perché non vi diremo come va a finire il libro, non vi diremo tante cose della trama oltre a quello che vi legge Maria Pia, ma Kurt è un poliziotto, diciamo, temporaneamente sospeso a mezzo servizio, diciamo. Sì. E Vanessa invece è una poliziotta in attività che gli si affianca in questa indagine, diciamo, non propriamente canonica, per usare un termine così. Assolutamente sì. In sottopelle non c'era una protagonista, un personaggio femminile forte, non so nemmeno io il perché, nel senso che quando scrivo vado d'istinto, quindi non sto a pensare devo mettere quello, devo essere... come si tende spesso a fare nei film magari, no? Che si tende a prendere sempre uno di colore, un asiatico, una donna, per riuscire a accontentare tutti. Ma quello lo fanno perché così è politically corretto. Esatto, io ho tentato di essere scorretto e quindi ovviamente è una cosa classica del genere che sì, infatti. Però in questo libro volevo assolutamente averci un personaggio femminile forte, e Vanessa lo è, mi sono divertito molto, ho voluto calcare la mano anche in determinati aspetti, però la poliziotta di bella di un certo tipo, che però oltre ad essere dura e decisa è anche sboccata, è divertente, però è intelligente, sì no. Sì, diciamo che forse è più maschiaccio lei di Kurt per certi versi, in certe situazioni, sì. O anche più lei forse dei motociclisti, delle bande che poi dovranno affrontare. Quindi è una donna con gli attributi, assolutamente, per dirla con un termine che ci dava una volta. Esatto. Beh, visto che parliamo lo stile pulp, con le palle. Insomma, per quello che in questo romanzo è un thriller, c'è un'indagine, è un crime, diciamo così, però poi c'è tutta quella parte pulp come stile e tipologia, insomma, di letteratura. Bene, allora a questo punto però cediamo veramente la parola a lei. Quando spensi i fari del mio bolide, venni inghiottito dall'oscurità. I miei occhi ci misero un po' ad abituarsi, però ne valse la pena. Sopra la testa avevo un oceano di stelle e le sagome nere degli alberi che puntavano all'universo. Era una serata estiva calda, come ai vecchi tempi, i tempi dell'innocenza e delle lucciole nella notte. Avanzai lungo il sentiero inoltrandomi nel bosco. Mi ero portato dietro una piccola torcia elettrica per farmi strada. Quando sentii i rumori del bosco, rabbrividii. I predatori notturni erano a caccia di prede. Sperai di non rientrare nel loro menù serale. Dopo un po', udii il rumore dei generatori diesel e intravidi il chiarore intenso delle luci alogene. C'erano alcuni agenti di guardia, ma nessuno di quelli che avevo incontrato il giorno prima. Mostrai il mio distintivo e gli informai che conoscevo il commissario Scrovegni. Sembrò bastare. L'agente di guardia annuì. Passai sotto il nastro e lentamente mi avvicinai al luogo delle vittime. La mia attenzione si focalizzò sulla zona centrale. Lì l'erba era nera e morta. La decomposizione contagiava tutto, uccideva la vita. Frugai nel terreno e raccolsi una larva. Si sarebbe trasformata in crisalide. Dal colore stimai che era molto giovane, il che coincideva con il giorno del ritrovamento. Targhette e candelotti segnalavano il posizionamento di oggetti rinvenuti sulla scena del crimine. Oltrepassai la radura e mossi un primo passo verso il fitto del bosco. Le sagome degli alberi erano scure, sempre più distanti dalla luce artificiale. Proseguì con la torcia elettrica. Di sicuro gli agenti avevano battuto la zona, distinguendosi a ventaglio. Io ero solo e non potevo fare altrettanto, ma non avevo sonno. E se fossi rimasto in città, sarei tornato al Bloodwurst, solo per combinare qualche rissa. Ero più al sicuro tra gli alberi. Portai la mano dietro la schiena e afferrai la Smith e Wesson. Non la caricai. Volevo evitare colpi accidentali. Potevo anche spararmi nelle palle, come era successo all'agente Philip Love, un mio collega americano nella polizia di Ferrara. Stava facendo un'ispezione in un magazzino di carne di pollo, quando per paura di imbattersi in un pollo gigante aveva estratto la pistola d'ordinanza disattivando la sicura. Un pennuto effettivamente più grande del normale, pompato da chissà quanti steroidi, lo assalì. Il mio collega sobbalzò dallo spavento e sparò, beccandosi le palle. Lo trovarono svenuto e mezzo dissanguato nel magazzino, col pollo gigante che gli beccava l'uccello. Quindi preferì non caricare il revolver, ma il tocco di acciaio mi confortava. Passai alcune ore nel bosco, guardai ovunque, ma non vidi nulla. Non aveva senso allontanarsi troppo dal luogo del ritrovamento. Se la scena del crimine aveva effettivamente a che vedere con un disegno più grande, quel disegno doveva essere nei dintorni. Cerbero, il cane che fa la guardia al cancello dell'inferno, dissi tra me e me. Non c'era nulla a cui potesse fare la guardia la vittima se non al bosco stesso. Tornai alla natura. Riconobbi in lontananza la fredda luce delle lampade quando improvvisamente squillò il cellulare. Sobbalzai e scattai con la mano che impugnava la pistola. Sì, risposi senza leggere il numero. Silenzio. Cura. Sono io. Era Laura. Aveva appena pianto, lo sentivo dalla voce. È tutto ok? No, Kurt, no, non è tutto ok. A dire la verità fa tutto schifo, la vita fa schifo. Io sono stanca, non ne voglio più sapere, basta. Laura, ascoltami, devi calmarti, ok? Ricorda cosa ha detto il medico. Pensa a qualcosa di bello, fai dei respiri profondi e cerca di... Non funziona, Kurt, non va! Non ci riusciremo mai, lo sai? A fare cosa? Le chiesi. A dimenticare. Io così non ce la faccio. D'accordo, senti, arrivo col primo treno. No, non voglio vederti. Rispetta almeno questo. Te ne sei andato. Lo volevo anch'io. Devi rispettarmi, Kurt. Me lo devi. Alzai lo sguardo e vidi le stelle oltre il tetto di pini. Respirai a fondo l'aria che sapeva di bosco bagnato. Ripensai a quando l'amavo, a quanto ci amavamo. D'accordo, ma mettiti nei miei panni. Ti sento parlare così e non posso fare nulla. Hai già fatto abbastanza. Hai distrutto le nostre vite. Quella cosa terribile, io non dovevo chiamarti. No, Laura, hai fatto bene invece. Lo devi fare, sempre. Non c'era più linea. Mi guardai in giro. Non mi ero nemmeno accorto di aver raggiunto la radura. Mi sembrò di non riuscire a respirare. Mi sforzai a trattenere il fiato. Se avessi respirato profondamente avrei soltanto peggiorato le cose. L'attacco di panico si placò. Ora avevo bisogno di bere fino al collasso. Cerbero, il cane dell'inferno, stava rovistando tra gli attrezzi in cerca di una pinza. Era buio e umido là sotto. Non poteva accendere alcuna luce se non un fiammifero ogni tanto. Fuori era buio e qualcuno avrebbe potuto vedere un guizzo di luce. La botola era ben nascosta, ma lasciava qualche spiraglio attorno alla base. D'accordo, senti, arrivo col primo treno. C'era qualcuno là sopra. Doveva stare fermo. D'accordo, ma mettiti nei miei panni. Ti sento parlare così e non posso fare nulla. Passò sopra di lui. Era devi fare sempre. Si portò una mano alla fronte sudata, l'altra all'impugnatura della roccola, la trezzo aveva la lama metallica curvata, macchiata e arrugginita. Le gocce di sudore scivolarono sul suo volto, fino alla stretta fessura del labbro leporino. Così, cioè io né a immaginarmelo né a scriverlo avevo, mi è spaventato, cioè ero veramente, mi sembrava che non l'avessi nemmeno sentito io qua. Cioè è strana la sensazione, perché conosco per filo e per segno ogni passaggio, ma sentirlo, no, così è una cosa assolutamente cinematografica. Ci sono già le battute, ci sono le inquadrature, c'è tutto, ma lui è un gran molto fan. Facile, è stato molto è stato facilitato il mio compito, perché io mentre leggevo c'era già la sceneggiatura. Questo perché Mattias, oltre ad essere un gran lettore, è anche un grande estimatore di cinema e anche di serie televisive, sì, poliziesche. Sì, è vero. E quindi questo poi emerge da quello che scrive. Ma in questo pezzo, scusami soltanto, l'ho scelto perché rappresenta più cose, e sono più elementi. Non so se lo volevi dire tu. Allora, questo pezzo... Noi avevamo una scaletta con le cose che ci volevamo. Non c'entra niente questo. Ma questo non c'entra niente. Come il resto che abbiamo detto fino adesso. Ma però dai, un pochino ci siamo attenuti a quello che pensavamo di comunicare. Invece, quello che viene fuori da questa lettura molto bella, non so se avete colto un riferimento particolare a un collega della polizia di Ferrara. E l'altro, chi è Laura? Quindi le domande, perché Ferrara e chi è Laura? Allora, puoi rispondere prima a quella che vuoi, non c'è un ordine. Allora, perché Ferrara nel libro? Sì, perché qui c'è un accenno a Ferrara, sì. Ma diciamo che Ferrara nel libro poi torna un po' più prepotentemente, perché comunque Kurt... Esatto, lui arriva, lui è di Bolzano. Cioè lui è di Bolzano. Però poi è passato a Ferrara per motivi di lavoro, eccetera, eccetera, ed è in fuga da qualcosa che è accaduto. Si capisce che è qualcosa di brutto. Laura... La sua compagna sta male, soffre, in realtà soffre molto anche Kurt, solo che affronta il tutto in modo diverso, e quindi è in cerca di redenzione, è in cerca di dimenticare, sta cercando di ricominciare a vivere quello che sta cercando di fare nello stesso istante anche Laura in modo diverso. In questo pezzo appunto c'è sia la parte che hai sottolineato tu adesso, quello del suo collega che si spara nelle palle, se fosse stato un classico, diciamo, thriller noir, quella parte non ci sarebbe stata, ok? Quindi quella parte del riferimento del collega che lavorava in una situazione abbastanza anche assurda, che però può capitare, perché però fa parte anche di una realtà, spesso la realtà è più comica, più assurda di tante fantasie, ecco che una scena di questo tipo sottolinea proprio lo stile pulp di cui parlavamo prima, che fa anche sorridere, ma allo stesso tempo dà quasi un senso. È un sorridere a denti stretti sempre. Sì, assolutamente, assolutamente sì. E Ferrara, perché comunque è un'altra città a cui sono legato, mio papà è di Ferrara, io invece sono nato qui, e quindi ho voluto utilizzare Ferrara come città per un certo spostamento che mi serviva ai fini della trama. Però come hai detto tu, di Ferrara non c'è tantissimo, però qualcosina c'è. Però hai scelto, come, e ritorna il discorso di prima di aver scelto Bolzano, che è un posto che conosci, sei tornato a scegliere, sì, invece che Miami, lo spostamento lo hai fatto in un altro posto che ti è familiare, esatto, e ben noto. Esatto, esatto. E poi in questa scena, se avete notato, c'è anche la parte appunto finale dove che ha interpretato meravigliosamente Maria Pia, perché con il tono di voce ha fatto capire, essendo cambiato anche lo stile, ma essendo quel killer, quella persona nella botola sotterranea, avendo ascoltato tutto quello che accadeva sopra di lui, io mi stavo proprio chiedendo come avresti letto quella parte. Ho chiesto anch'io poi ripeto, è venuto così. E quindi in questo capitolo c'è un po' tutto, c'è l'indagine, c'è la situazione con Laura, c'è un po' di pulp, c'è l'atmosfera da thriller, e poi quel gioco di inquadrature con la parte finale sotterranea, insomma. E quindi rappresentava un po' il romanzo. Direi che possiamo procedere con un altro pezzettino e poi quello, sì, che c'eravamo prefissi lo mettiamo invece dopo il pezzettino che ci legge adesso. Io farei leggere tutta la sera, quindi. E quindi semaforo verde. Vado. Faceva freddo, un inferno gelido. Le dita toccarono una parete liscia. Ero nudo, me ne resi conto subito. Che cosa mi hanno fatto? Non riuscivo ad aprire gli occhi, troppo pesanti. La testa sembrava di cemento. Ero stato drogato. Conoscevo certi effetti collaterali. Ma perché avevo così freddo? Era piena estate. Stavo nuotando. Sì, ora capivo. Ma c'era anche qualcosa di duro che sbatteva contro di me. Le dita dei piedi erano all'aria, erano fuori dall'acqua. Non stavo nuotando, stavo galleggiando. Mi sforzai e riuscii a vedere qualcosa. Misi a fuoco. C'erano i miei piedi, la superficie dell'acqua piena zeppa di ghiaccio. Ero disteso nella vasca della stanza d'albergo. Ma cosa? Qualcuno mi aveva chiamato per nome mentre dormivo. Allungai un braccio e tentai di afferrare il cordino che pendeva dal muro, quello per le emergenze. Niente da fare. Al secondo tentativo mi spinsi verso l'alto, appoggiando la mano sinistra sul bordo sdrucciolevole della vasca, e ci riuscii, tirai. Attesi un paio di minuti, ma non arrivò nessuno. C'era da aspettarselo. Avrei dovuto tirarmi fuori da quella brutta faccenda da solo. Inspirai a fondo, appoggiando le mani sui bordi della vasca, e tirai su il busto. Qualcosa al fianco mi mozzò il fiato, ma non seppi dire cosa. Quel freddo attutiva tutto. A parte i pensieri, quelli c'erano e come, e la paura. Mi girava la testa, ma se non altro ero seduto. Mi resi conto che l'acqua non era trasparente, era rosata. Restai ad osservare i cubetti di ghiaccio che galleggiavano, muovendosi pigramente in un oceano di terrore, quando provai una fitta di dolore acuta, di nuovo al fianco. Abbassai lo sguardo, alzando leggermente la spalla sinistra. Che cosa mi avevano fatto? Iniziai a gridare come non avevo mai fatto prima. Bocca spalancata, 30 denti che vibravano di paura. C'era un'incisione al mio fianco sinistro. chiuso con delle graffette metalliche. Ecco qui. Abbiamo proprio il succo dell'essere pulp di questo romanzo, perché tutta la prima parte di quest'ultima lettura era profondamente hard-boiled. Hard-boiled è un termine che in gastronomia si va a riferire all'uovo quando si fa l'uovo sodo. E per acquisizione è diventata la definizione con cui si chiamano i romanzi gialli, con i cosiddetti duri, quelli, diciamo, quei gialli che hanno cominciato a prendere sopravvento alla fine degli anni 20 e hanno avuto il loro massimo splendore nel periodo, appunto, dagli anni 20 fino agli anni 50, ma con ottimi esempi anche dopo. E questi risvegli traumatici, con la testa completamente annebbiata, senza sapere dove sono, cosa faccio, chi sono e cosa mi è successo, sono tipici di romanzi come quelli di con personaggi come Philip Marlowe, oppure Sam Spade, oppure Detective Harper, che sono alcuni dei personaggi più noti in questo genere letterario. Ma poi c'è questa cosa del fianco ricucito con la graffettatrice, che non avremmo mai trovato nella letteratura poliziesca di autori come Chandler, Spillane o Emmett, e invece è proprio molto legata alla scuola pulp. Assolutamente sì. Comunque credo che quando alcuni lettori che conosco leggono alcuni miei passaggi e restano impressionati, io dico sempre: beh, dai, adesso non esagerare, no, penso che la sensazione sia paragonabile a quella che io adesso ascoltando te, perché sento il tutto in un modo diverso, interpretato, e quindi fa effetto. Sono non ci avevo pensato anche effetto. Tarantino a questo, non ci avevo ancora pensato anche Tarantino. Però magari si potrebbe dargli un'idea, ma tu un regista ce l'hai già, quindi non hai bisogno di Tarantino. Ma mancano i fondi, credo, il budget. Mai dire mai. E a questo punto riprendiamo un argomento che avevamo lasciato in sospeso, perché tra i protagonisti della trama di questo giallo, allora abbiamo conosciuto Kurt, sì, ma però di Kurt si potrebbero dire ancora tante cose. Abbiamo conosciuto Vanessa, o meglio abbiamo parlato noi di Vanessa, perché non abbiamo avuto una lettura specifica sul suo personaggio. Abbiamo incontrato Laura. Laura è un personaggio chiave di questo romanzo, perché non è soltanto l'ex compagna disperata che abbiamo sentito nella lettura precedente a questa, è molto di più, e non vi diciamo altro perché non vogliamo rovinarvi il gusto della lettura, perché poi questo romanzo ha un'altra particolarità che si riaggancia al romanzo precedente di Mattias, che è quella di arrivare alla fine e tirare fuori un finale inatteso e a sorpresa, quando i giochi già si pensa siano finiti, siano chiusi, alla fine c'è il colpo di teatro finale, come si dice solitamente, che è anche un colpo di genio e che non vi anticipiamo. Assolutamente no, grazie. No, prego, ma invece torniamo ai personaggi. Tra i personaggi di questa trama, soprattutto per quanto riguarda la parte più profondamente pulp, che è, diciamo, quello che potremmo indicare come il primo dei tre finali, cioè la storia ha tre momenti clou, uno dei quali è una lotta epocale in una baita di montagna, a cui partecipano dei motociclisti. E però questa cosa dei motociclisti a Mattia si è rimasta impressa, se mi ricordo bene, per un fatto di cronaca. Sì, io da ragazzo negli anni 90, appunto, avendoli qui, questa, abbiamo sei Bandidos che gli Hells Angels, e mi ricordo ancora ragazzino negli anni 90 che erano molto più attivi, più violenti, perché si leggevano, si sentivano nella cronaca dei fatti, insomma, più violenti, estremi. E essendo comunque motociclisti molto idonei al genere pulp, perché sono dei personaggi di un certo tipo, ho voluto assolutamente riprenderli, anche se i biker violenti di questa storia non sono né i Bandidos né gli Hells Angels, giusto per evitare anche che ci facciano una rappresaglia dopo quando usciamo di qua, sono molto suscettibili questi personaggi, quindi diciamo che loro, ogni riferimento è puramente casuale, possono sostenere il Kurt, il protagonista, e poi la banda, quella veramente pericolosa, è in realtà un'altra. È una banda senza nome, e quindi che sta proprio a identificare la questione della: se non ho un nome, forse se non hanno un nome sono ancora più pericolosi. Come perché... peraltro non hanno un nome neanche gli altri personaggi, hanno sempre una definizione che si rifà un po' al loro aspetto fisico. Sì. Se leggete poi, quando leggerete il libro, in alcuni passaggi ci sono delle comparse che non hanno nome, ma una particolarità visiva, ma questo per facilitare la lettura, no? Per facilitare il lettore, inutile mettere dentro tanti nomi che poi uno non se li ricorda, piuttosto faccia di scheletro, collo taurino, poi c'è il nano rissoso. Come? Il criceto gigante, esatto. Viene in mente un po' a Antonio Manzini, che nei suoi romanzi di Rocco Schiavone fa sempre abbinare da Schiavone i personaggi con cui si incontra a degli animali che lui ripesca da un vecchio libro di storia naturale che aveva a casa. Eh sì, una specie, diciamo. Sì. Sì, lì è più contestualizzato forse per la questione. Sì, chiaramente. Qui è più libera perché, appunto, scritto in prima persona, è Kurt che si immagina ed ha questi soprannomi come Naso Rotto, che è un detective collega di Vanessa, che a lui sta antipatico a prescindere, perché Vanessa è una bella poliziotta, e accanto a questo poliziotto lui non lo sopporta e quindi continua a chiamarlo Naso Rotto. Però aiuta anche, perché se a un certo punto torna a parlare di uno che si chiama Martin, uno potrebbe anche non ricordare chi è, ma con Naso Rotto uno se lo ricorda. Bene, io non so, a questo punto magari potrebbe essere anche interessante vedere se abbiamo incuriosito sufficientemente il pubblico e vedere se qualcuno ha qualche domanda da farti per cercare di scoprire qualcosa in più o per approfondire la tua scrittura. Sì. O per... è che sono timidi. Sono timidi? Siete timidi? Inizio io. Ah, vedi che non sono tutti così timidi. E ovviamente ogni scrittore prende, cioè, fa i personaggi, li scrive tutto quanto, che dicono un po' che assomiglia un po' a chi scrive, no? Adesso non riesco a parlare in italiano, ovviamente. Tu hai delle caratteristiche tue, ti assomigli un po' a qualche personaggio? Non dico che devi essere il serial killer, ovviamente, però nel senso, c'è qualcosa di tuo nei personaggi, anche in quelli femminili, ovviamente, una curiosità. Sì, allora sicuramente dell'autore c'è sempre tanto, però non è detto che di mio ci sia in tutto in un personaggio, no? Quindi può essere che di mio ci sia un po' dappertutto, volendo anche in certe situazioni, in certe cose, anche soltanto dette da un personaggio secondario. C'è una scena in cui Kurt è in treno, viaggia per andare a Ferrara, c'è semplicemente un signore anziano con un cappello che inizia a parlargli e gli dà due dritte. Quelle due dritte in realtà sono mie, cioè gliele darei io a Kurt, no? Però vengono date per mano, per bocca di di un signore che è un'apparizione, cioè una comparsa in quel momento della scena. E quindi c'è qualcosa di mio sicuramente in giro per tutto il libro, però credo anche che uno scrittore utilizzi la società in cui lui vive, in cui lui è cresciuto, anche come spunto e come spunti. Quindi se uno scrittore o un autore vive in una certa città o viene a conoscenza di determinate situazioni, tutto questo in qualche modo lui le cattura, no? Siamo come delle spugne, quindi tutto quello che noi sentiamo ce le imprimiamo e poi dopo possiamo riutilizzarle. Quindi è difficile riuscire a dire fin dove arriva una qualcosa che è solo mia. Può essere. Quindi allora magari i personaggi, perché come Carlo Verdone lui dice che i personaggi, quelli che fanno il film, sono comunque persone che ha veramente conosciuto, quindi che ne so. Da me di meno. Ah, ok. Da me un po' meno. Tendenzialmente forse perché provengo dal fantasy, non lo so. Sono abituato a inventare. Lavori più di fantasia? Sì. Sì, lavoro di fantasia, sempre. Infatti. Non è Vanessa. No, non è così sboccata. No, però fisicamente io me lo immaginavo. Beh, sì, può essere. Però no, io in realtà tendo a inventare, no? Anche perché non voglio collegare troppo una persona a una persona reale, perché poi se a un certo punto deve morire, o devo fargli fare qualcosa è meglio, no? Allora cerco di creare personaggi da cui posso anche facilmente poi in caso staccarmi. Anche perché penso che un personaggio sia interessante fin quando è utile alla trama. Nel momento in cui non è più così utile alla trama, perché comincia a diventare ripetitivo, secondo me è bene cambiare qualcosa, anche di drastico. Questo magari succede spesso anche nelle serie televisive. A un certo punto c'è un personaggio che magari nella terza stagione comincia a essere ripetitivo perché non ha più nulla da dire, magari la sua dipartita o l'uscita di scena in qualche modo può smuovere qualcosa e quindi dare importanza sia al personaggio ma anche poi alla trama. Inutile tenerli lì quando a un certo punto solo per affetto non ha senso. Comunque con la fantasia si fa tanto, no? Anche serial killer, uno, il cattivo è importante, importantissimo, è il cattivo a fare la storia. Lo dico spesso anche ai ragazzi a scuola quando si inventano storie, fiabe o altro, il cattivo che fa la storia, quindi è molto importante dedicarci tempo al cattivo e non piazzarlo lì semplicemente. Quindi c'è tutta una dietrologia psicologica poi in un thriller da utilizzare per dare. Il cattivo è fondamentale, perché se il cattivo non è caratterizzato come si deve, non ha senso che ci sia il buono. Esatto. Se qualcuno ha una curiosità, anche soltanto, può approfittarne. È qui apposta per rispondere alle vostre domande. Uno che scrive così non ha paura di niente, immagino. Non gli ha mai fatto paura un film giallo. Mi viene in mente L'Esorcista, che io l'ho guardato così tutto. Sì, no, me la ricordo anch'io, la scena della bambina che scende. No, allora io credo che uno scrittore si libera, no? Delle paure e anche della voglia di raccontare, chiaramente. Quindi assolutamente sì, paure ce le abbiamo tutti, magari di cose molto più semplici di queste. Diciamo che sono più abituato forse anche a vedere un certo tipo di film, per esempio, quello sì, magari se vado a vedere un horror posso anche divertirmi, nel senso che mi spavento, quello sì, gli spaventi, ma più che altro gli scrittori, ma come tante altre persone, ma in questo caso essendo io scrittore cerco di, non lo so, vivo tutte le emozioni che siano brutte, tristi, belle, felici, riesco a vivere facilmente. Quindi ho questo canale aperto, altrimenti non riuscirei a scrivere e a esprimermi. Quindi assolutamente, anche spesso mi succede magari semplicemente a una pubblicità fatta in un certo modo che quasi mi viene da commuovermi. Quindi le emozioni sono forti, le provo tanto, però non ho paura di queste emozioni. Questo forse è diverso, non ho paura di vivere determinate emozioni magari leggendo o guardando un film. Mi spavento, ho paura, ma imparo e mi piace perché è vita. Poi magari la scrittura è anche un modo per esorcizzare queste cose. Sì, paure. Questo sì, sì, sicuramente. Sicuramente Sotto pelle, l'altro thriller, trattava un argomento piuttosto pesante. Che c'era la pedofilia di mezzo lì. C'era di mezzo la pedofilia, che per me è il male assoluto, essendo anche papà. E l'ho scritto, ho iniziato a scriverlo che non ero ancora papà, poi ho finito di scriverlo che ero diventato papà. Ed era pesante, determinati argomenti mi hanno anche colpito, ed è lì che qualcuno mi ha detto una volta, mi aveva presentato Andrea Pinkez a Milano, e qualcuno dal pubblico mi ha fatto questa domanda: ma come mai è ambientato quel libro a New York, a Miami e non in Italia? Ancora non avevo scritto Quel che resta del peccato. Io non sapevo dare una risposta, pensavo forse per una questione di abitudine, di film, di libri letti. E però questo signore mi fa: non è che forse, essendo questa la mia paura, una delle mie paure più grandi, ho preferito ambientarlo più lontano possibile da me? Può essere. Sicuramente dopo essere passato dal fantasy, dove gli orchi o le altre creature demoniache potevano essere il male, sono passato a Sotto pelle, il primo thriller che ho scritto, dove c'era un altro tipo di mostro. Ma io penso che più grande sia il cattivo, che comunque mostro restava e orco restava, assolutamente sì, anche senza le fattezze di quelli del fantasy, sì. Ma se un cattivo fa determinate cose, e più viene descritto bene e delineato psicologicamente, più impressione fa e più grande poi sarà la vittoria del bene. E quindi questo è quello che ho imparato anche dal fantasy. Il male deve esserci e deve essere oscuro e cattivo, l'abbiamo imparato anche con Tolkien nel Signore degli Anelli. Sono poi persone anche semplici, come sono stati gli Hobbit, a sconfiggere poi il male assoluto, e quindi ancora di più vale la vittoria poi. E poi è quello che succede anche nelle favole? Sì, nelle favole in forma. E comunque anche il discorso di esorcizzare, come diceva giustamente Paolo, anche i grandi registi, da Dario Argento in poi, hanno sempre detto che era per esorcizzare delle proprie paure che producevano. Anche Pupi Avati che adesso conosciamo come un regista molto, molto poetico, molto... ma lui ha fatto La casa delle finestre che ridono. Esatto. E lui appunto mi ha detto che ho avuto la fortuna di conoscerlo, e che appunto ha realizzato quel film perché doveva sconfiggere dei suoi mostri. Sì, se non l'avete visto, consigliatissimo, da un colpo di spugna su tutto quello che ha fatto Dario Argento, secondo me. È molto molto più inquietante di qualunque cosa. Diceva che vorrebbe, chi lo sa, se ci riesce, perché insomma ha già un'età e non sta nemmeno molto bene, però voleva ritornare al giallo, al thriller, a quel genere, al il thriller padano. Può sentire un altro pezzo dello spirito? Ma certo, sì. Era previsto. Sì, l'ultimo capitolo. Torniamo indietro. Erano cinque, no? Sì, no. Una cosa bellissima, se posso permettermi di aggiungere. Che una cosa bellissima di questo thriller, di questo giallo, di questo noir, è che io non sono una grandissima frequentatrice di gialli, di thriller, però qualche volta non mi dispiacciono. E a un certo punto, qualche volta, se scritti male, capisco anche all'inizio, però comunque anche se scritti bene, a un certo punto della storia, da metà a tre quarti, riesco a individuare l'assassino. E in questo caso io, fino a quando non si è svelato, è la signora in giallo che è in te. La signora in giallo stasera sono in rosso e sanguinolento, ma non ero assolutamente, questo non l'ho detto neanche a Mattias, no, lo sto dicendo adesso, in questo momento non sono assolutamente riuscita a capire chi fosse. No, beh, non... No, sono contento, mi fa piacere, anche perché credo che ogni cosa che io stia pubblicando ho cercato anche nel fantasy metterci colpi di scena. Ci sono già fin dal primo volume della trilogia fantasy, perché è un qualcosa che a me piace. A me piace, mi diverto quando guardo un film o leggo un libro e l'autore riesce a spiazzarmi completamente. È lì che sento che ha lavorato bene, che è riuscito a fare. Io ci ho tentato in tutte le maniere di capire, di intuire. Ti sfido con Sottopelle, l'altro che forse non hai letto, no. Perché anche lì bisogna vedere se funziona come. Il primo capitolo che avevamo saltato, se vuoi, proprio l'inizio, dopo il prologo che ha letto all'inizio, c'è il primo capitolo che inizia. Nella stanza c'era odore di muffa, sigarette e solitudine, la puzza di chi è solo. Attraverso il vetro sottile e fragile come un cracker osservavo via Macello, la Schlachthofstrasse. Avevo visto una puttana salire a bordo di un'auto color ruggine. Era montata su per farsi montare. L'atto si sarebbe consumato alle luci elettriche dei lampioni. Sesso elettrico. Sesso consumato che consuma il logora. Proprio non capisco cosa ci trovano. Sulle montagne stavano avvampando i primi falò, gli Herz Jesu Foia. I tedeschi mi stanno sulle balle. Oh, sempre la stessa storia con te, Battista, risposi. No, credimi, Kurt, con i tedeschi è diverso. E perché? Reggevo il cellulare tra spalla e orecchio. La voce di Battista era già alta di per sé. Al cellulare sembrava addirittura squillante. Perché? Sono razzisti, tutti quanti. E tu non lo sei? Che non lo sono. Quelli ammazzano la gente col gas. Sbuffai nel cellulare e l'alito mi rimbalzò contro, sapeva di whisky. Continuai a tenere due dita tra le aste in alluminio della persiana per sbirciare fuori. Le prostitute ciondolavano in giro come burattini senza anima. Un ubriacone zoppo faceva scricchiolare sotto i piedi delle schegge di vetro appartenute a una finestra frantumata. Quello l'hanno fatto i nazisti, Battista, e parecchio tempo fa. Sì, ma erano tedeschi o no? Beh, se è per questo noi abbiamo messo in croce Gesù Cristo. Dall'altra parte della linea Battista sembrò rilunginare su quelle parole. Ma che poi, tu sei italiano soltanto a metà, dovresti starmi sulle balle a prescindere. Sorrisi. Battista era fin troppo schietto. Comunque era vero. Mia madre era di un paesino vicino a Bolzano, Schlanders. Mio padre invece di Ferrara. Le cose stavano così, che piacesse o meno a Battista. E infatti non mi sopporti, risposi. Che poi i tedeschi di qua non hanno nulla a che vedere con quelli che intendi tu. Che poi sono tutte brave persone anche in Germania e in Austria e anche in Svizzera. Ma quanti tedeschi esistono al mondo? Sono peggio dei musicali, dei cinesi. Ma smetti. Sì, dicevamo. Restai per un attimo in silenzio, mi versai due dita di whisky e scolai il bicchierino in un sorso. Intanto mi osservavo nel riflesso della finestra. Avevo la fronte lucida dal sudore. Faceva terribilmente caldo per essere un luogo circondato dalle montagne. Colpa della conca nelle Alpi orientali, estremo nord d'Italia, su cui si erge il capoluogo. Le montagne attorno trattenevano il calore, schiacciandolo sulla città. Il mio volto risplendeva della stessa luce al neon dei lampioni. E tanto per farmi quattro risate, magari anche cinque. Voltai la schiena allo specchio e sbirciai da sopra la spalla per ammirare quello che mi era rimasto addosso della mia prima operazione di polizia. Una distesa di carne bruciata che splendeva come un abisso in fiamme. I ricordi mi investirono come un treno merci, perché i ricordi lo sanno bene quando sei stanco e debole. C'è Battista, che è un personaggio ignorante, come deve essere definito, però ovviamente bisogna riuscire a interpretare anche questo tipo di personaggio, che poi riesce ad avere dialoghi spesso divertenti comunque con Kurt. Bene, non so cosa... No, direi che abbiamo finito. Adesso dovete solo leggere, esattamente. O spargere la voce, va bene uguale.